continue. Walking down the street, I'm the lady, oh, showing off my map of Tasmania. Didn't want more. I got dazzled by the sun. Too long waiting for you to come, and the only trace of your passage here is this silence. I hear in my ears, in my ears, in my ears. Questa era la voce bella e piacevole e sensuale, si può dire sensuale quando c'hai l'artista di fronte? Direi sì. Di Kiss and Drive, che ha aperto Sisterhood is Blooming, puntata al numero 9, e abbiamo avuto un po' di problemi tecnici all'inizio, ma è tutto risolto. Questa sera è una puntata un po' particolare perché abbiamo in studio Donna Sonica e La Musique, come al solito, ma in più ha due ospiti graditissime, che sono appunto Kiss and Drive, che ha aperto la serata, e Eli Natali, che sono venute un po' a chiacchierare con noi di musica di donne, della loro musica e anche un po' della musica delle altre artiste che magari sentiamo anche durante la trasmissione. E poi le stiamo facendo suonare live, quindi sentiamo proprio dal vivo i loro prodotti musicali. Allora, Kiss and Drive e Elisabetta Spada, che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare anche poco tempo fa nell'ultima serata del Lady Fest. È stato un concerto molto apprezzato, siamo contente che tu sia qui. Grazie mille, anch'io. E abbiamo un po' parlato con te, anche abbiamo mandato un pezzo dell'intervista che ti avevo fatto, quindi ci ha raccontato un po' da dove vieni e cosa stai facendo adesso, insomma. Mi ricordo che mi raccontavi di questa cosa, che tu sei romana ma trasferita in Belgio e diciamo adottata un po' anche artisticamente. Sì, sì, è vero. In che senso? Raccontaci un po' questo. Nel senso che in effetti ho iniziato la mia carriera artistica lì e non qui. Quando ero a Roma avevo fatto qualche gruppetto agli anni primi anni dell'università, e poi ho smesso per molto tempo. Io ho ricominciato in Belgio a suonare, ho iniziato a scrivere, ho scritto le prime canzoni là, e poi la cosa che ha più, come dire, questa la cosa dell'adottamento, mi hanno adottato perché ho vinto il primo premio di un concorso di gruppi emergenti, pur essendo italiana, sono stati gentili e mi hanno premiato. Noi spesso sottolineiamo quanto molto spesso mettiamo musica prodotta in altri paesi, soprattutto europei, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, di donne che però provengono da altri paesi, magari l'Africa o l'Asia, e quindi anche loro vengono adottate. Cioè è una politica che in Italia non funziona tantissimo, anche perché è già raro che ci siano le risorse per gli artisti italiani. Eli Natali, l'altra nostra ospite. Ciao, buonasera. Che è invece lei con una voce molto sexy che invece è una vecchia conoscenza della radio, perché appunto già. Te avevi un programma qui. Sì, l'anno scorso facevo un programma bisettimanale nello spazio che adesso occupate voi. Ecco, ci siamo rubato. Abbiamo fregato il lavoro. Zozzone. Che si chiamava Which is She. Sì. Che era molto bello, molto interessante, e che anche insomma aveva molta attenzione con diciamo la musica live, perché comunque c'erano delle cose. Sì, era cercavo di far venire ogni puntata un artista, magari in studio oppure facendo anche un'intervista telefonica se non stava a Roma. Sì. Infatti sto dall'altra parte oggi. Com'è, che sensazione è farsi intervistare da artista? Ma non lo so se l'attenzione è più da una parte o dall'altra. Te lo diremo dopo, alla fine della trasmissione, da questa parte. Okay. Noi in genere, la nostra trasmissione, per chi ci segue, funziona che cerchiamo di sostanzialmente promuovere la musica delle donne con un po' di attenzione alle nuove uscite, ma insomma anche alle artiste che in qualche modo secondo noi non hanno l'attenzione giusta, quindi che in qualche modo vogliamo segnalare a chi ci ascolta. E quindi magari un pezzetto di musica lo buttiamo giù e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Okay. E anche la vostra esibizione. In qualche modo il vostro farvi conoscere. Io metterei un pezzo di un artista che io adoro, che si chiama Shannon Wright, che risponde al nome di Shannon Wright. Shannon Wright ha una carriera molto lunga, ha tirato fuori un sacco di album interessanti. Io sono particolarmente affezionata al suo album del 2004 che si chiama Over the Sun, che è un album intensissimo prodotto da Steve Albini, quindi insomma anche con una grande attenzione per il sound della chitarra e per questa sonorità molto, molto live. Dal vivo Shannon Wright ha proposto questo album soltanto con una batteria, quindi chitarra, voce, batteria, un sound molto grezzo, molto duro e molto molto molto intimo e intenso. Il pezzo che vi faccio ascoltare da Over the Sun è With Closed Eyes. Thank you. questa era Shannon Wright con una intensissima With Closed Eyes, come vi dicevo, tratta da Over the Sun. E una delle cose che mi ha impressionato più di questo artista, ve lo dico così poi ne parliamo rispetto alle vostre performance, è la sua capacità di concentrarsi e di raccogliere tutte le sue energie anche in ambienti molto ostili, nel senso che mi ricordo che lei una volta ha aperto il concerto di un altro gruppo, di un'altra band, c'era un grande interesse per questa band e poco interesse per lei. C'eravamo sì, qui a Roma, e quindi c'era molto brusio, molta confusione durante il suo concerto, che è una cosa molto brutta per un artista, non c'è molto interesse. Però lei a un certo punto era proprio visibile fisicamente che ha raccolto le forze e è andata avanti e ha fatto un bel concerto, non bellissimo, ma comunque è riuscita a portarla avanti anche cercando di raccontare qualcosa di sé. A voi, Elisa, lo chiedo a Elisa, lo chiedo a Elisabetta, insomma, è capitato di trovarvi in una condizione, succede a tutti gli artisti ovviamente, anche i più grandi, in cui l'ambiente è un po' ostile o disattento? Ridono, quindi secondo me sì. Se c'è una cosa che ci volete raccontare. Allora lo dico io. Beh sì, succede spessissimo, se non sempre praticamente. Però appunto dipende dalle serate, a volte non è facile raccogliere le forze, perché quando uno suona non è che può decidere il giorno in cui suona e l'umore che ha. Quindi se tu stai una serata un po', no, quindi magari non c'hai l'umore al top, è difficile conquistare il pubblico in quel, no, quando c'è quel brusio, quel chiacchierio, quella distrazione. Elisabetta? Io devo dire che mi sto abituando male, perché in Belgio il pubblico normalmente è molto rispettoso, quindi fanno un silenzio che a me mi fa quasi ridere ogni tanto. Quando tu inizi il concerto tutti... Silenzio totale, ovviamente dipende dalle situazioni. Quasi imbarazzante, quasi al contrario. Imbarazzante, no? Io come italiana dico, ma quando mai sembra che sto per fare, non so, un coso di violino all'auditorium. Però mi è successo anche a me invece in dei festival, tipo una festa di paese a mezzanotte dopo due gruppi rock, e c'erano tutti gli ubriachi proprio davanti alla prima fila che gridavano, allora che t'ho detto, tutto questo in francese, che si tiravano le birre e tutto, e io veramente... mi sono fatta tante fantasie, non riuscivo, cioè mi veniva da ridere durante le canzoni perché pensavo che avevo un bazooka che gli sparava tutti quanti. E invece, però invece in mano avevi un ukulele, che esatto. Come arma non è tanto. Sì, no, l'importante è sublimare il proprio desiderio di morte. No, è perché, anche perché per esempio nel caso di Shannon Wright, insomma, lei è un'artista molto intensa, molto che richiede un po' una certa attenzione. Il pezzo che abbiamo sentito, per esempio, appunto chitarra e batteria, anche dal punto di vista di arrangiamenti, insomma, un minimo di silenzio. Ed è una cosa che è un'abitudine che effettivamente in Italia è abbastanza diffusa, quella di vedersi a un concerto. Cioè ci vediamo lì, prendiamo una birra, facciamo una chiacchiera e il concerto in se stesso non è tanto importante, quindi vale sia per quelli noti che per quelli meno noti, per le artiste note che quelle meno note, insomma è un po' una questione culturale a cui dobbiamo, sulla quale dobbiamo riflettere. Adesso pensavamo di farvi ascoltare un pezzo di Elina Tali, yes, qui live in studio a Radio Onda Rossa. E il pezzo che ci fa ascoltare Eli, con calma ci prepariamo perché le nostre risorse sono un po' così, quindi dobbiamo, ecco, arrangiare il puzzle. Infatti io stasera parlerò pochissimo perché mi sto occupando di tutta la parte tecnica musicale ed è un delirio. La voce della musica è tutta concentrata sul mixer e quindi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Elina Tali qui live in studio, che si intitola Those Tiny Crimes. Sì, brava. Those sunny lions that supposedly confine us to different generations, the sweet cobwebs at the corner of your eyes. Yes, they try, how they try to divide. The only tangible difference that I can feel on credit lines, lifestyles. It's never springtime, it's always coffee time, never ever tea time for you. Well, I hear you mourning about days that are gone and are past, but it could also be springtime for you. Is there anything that I can do to make you fall for me? I tried everything that I could do, but you won't fall for it. I tried everything that I could do, but you won't fall for me. I tried so hard, but you won't take a glance. Crimes that you crumpled in a ball in your pocket, always checking they won't slip out of their socket. They're gonna make you lose your mind. Don't spend your time weighing them out as their command. We've only got this one's chance kiss. But it could also be death time for you. Is there anything that I can do to make you fall for me? I tried everything that I could do, but you won't fall for it. I tried everything that I could do, but you won't fall for me. I tried so hard, but you won't take a glimpse. Dall'altra parte stanno applaudendo. Those Tiny Crimes, questa era Ellie Natali, live qui a Radio Onda Rossa, in Sister Who Is Blooming, puntata numero 9, puntatona. Numero 9. Sì, sì. Allora, dimmi tutto. Prego. Parlo vai. Io? Sì. Allora, io mi volevo... intanto, vabbè, stiamo ascoltando in sottofondo l'ultimo album di Tori Amos. Che abbiamo già detto, insomma, niente di che. L'unica cosa è stato pubblicato dalla Deutsche Grammophon. Questo si può dire che, insomma... Beh, perlomeno, insomma... Che non sì, altro. Perché è un album proprio fondamentalmente classico. Vabbè. No, volevo parlare perché io ho trovato fra le tue amichette del MySpace, così girando, di Elisabetta Spada, di Elisabetta Spada, questa Chloé Dutrèfle, e ho visto che c'è un pezzo dove, più che altro ho ascoltato un pezzo dove tu insomma fai un recitato, no? Volevo se ti andava di parlarci di lei, di come si muove il movimento delle donne musiciste in Belgio. Domandone. Sì, infatti, il domandone da due ore. Come allora, una cosa alla volta, mi hai fatto quattro domande in una. Allora, Chloé Dutrèfle, che è la ragazza che ha scritto la canzone, che ha composto e ha suonato tutti gli strumenti. Queste ragazze, diciamo la ragazza, la donna, la musicista, l'artista. Altrimenti, se non ce lo diciamo noi, non ce lo dice. Basta ragione. Queste ragazze. Questo è vero. Aia. Niente. Picchiamo sul microfono. Si è distrutta live. La dentiera. Chi se ne questa è esatto, live. Esatto. E per quello mi piace, sono l'unica che non ha la cosina morbidina davanti al microfono, ma va bene uguale perché di solito do le botte con i denti. Anche in live mi prendo certe pigne. E voilà, tutto questo per tornare a Chloé Dutrèfle. È questa artista belga di Bruxelles. Scusami se ti interrompo, che lei ha fatto la sua label, si chiama la Trèfle Production. Sì, Production. Sì. Lei fa le cose in autoproduzione, si occupa di tutto, insomma non è lei che fa le copertine e tutto, però lavora con degli artisti che le stanno vicine, che le piacciono. E questo disco specialmente, di cui sentiremo un brano, è un concept album basato su una storia che si svolge all'interno della metropolitana di Bruxelles. E lei ha registrato, è stato passato molto tempo a registrare nella metro tutti dei suoni, poi ha fatto delle campionature, ha miscolato, ha fatto un brano con tutti dei pezzi di rumori di ferrovia. Insomma, è una che ha la pazienza che io non ho, ad esempio, di andare in giro con registratore in giro, più che altro tutto. Di fare dei montaggi veramente galattici di un sacco di suoni. E come dire, cioè, e il vostro rapporto di amicizia com'è? Noi ci siamo conosciute attraverso delle amiche comuni. E poi abbiamo anche, lei ha messo su un gruppo di musiciste, esatto. E mi ha chiesto di partecipare. Io per un anno e mezzo ho suonato con lei e altre due musiciste, una batterista e una, ve lo posso dire, una ragazza che suona, molto simpatica, Clementine, che lanciava dei suoni campionati e poi suonava il basso. E Chloé Dutrèfle al basso e la chitarra elettrica, e io che facevo un po' la cantante, un po' suonavo la chitarra elettrica male. Ed è stato molto divertente, però a un certo punto io mi sono dovuta distaccare per seguire un po' meglio il mio progetto Kiss and Drive. E quindi siamo amiche e poi abbiamo fatto un po' di musica insieme, poi ci siamo risalutate musicalmente e siamo rimaste amiche. Ok. E allora adesso ci sentiamo Elisabetta Spada in una veste che non è quella di cantante, ma di attrice, e la sentirete in questo pezzo di Chloé Dutrèfle che si intitola Allô. Pronto? Ti ho detto che ne parliamo stasera a casa. No, ho capito, ma non mi va di parlare. C'è. Guarda, non posso neanche gridare, ma scusami, ci sentiamo dopo, pensiamo se... Ça y est, c'est inévitable, nous revoit la plongée dans une de ces infinies symphonies contemporaines au mouvement indéfini. Yo, Robby, quoi, où est-ce qu'il y a, là, il y a un autre Symphonie achevante. assez déconcertant. Ce nouvel art sonore peut s'immiscer dans les lieux les plus improbables, surgir à chaque instant. Les polyphonies fortuites fusant impunément. Ça y est, ça sonne. Douceur, ce son qui résonne. Ça y est, ça sonne. Et saison qui rayonne. Ça y est, ça sonne. Douceur, ce son qui résonne. Ça y est, ça sonne. Décroche que je t'espionne. Ah, bon, ouais, ouais, ouais, c'est maintenant. J'ai pas oublié le studio, hein, j'arrive. Ouvre le micro, ouvre les machines. Je vais arriver dans quelques minutes. Tu connais, mes minutes à moi, elles durent des heures. Allez, peace, ciao. Cette invasion sonore, en quelques années seulement, a pris des dimensions dépassant l'entendement. Elle se propage dans les airs, insidieusement. Non, ma senti, ti ho detto tanta volte che non mi devi chiamare 5 volte al giorno. Ci siamo già parlati prima, inutile. Quand un mot bout de fil, d'un ustensile sans fil, discret, hurlant, démonstratif, ou même abandonnique, sommes-nous devenus sourds aux alentours? Ça y est, ça sonne. Tu sors ce son qui résonne. Ça y est, ça sonne. Décroche que je t'espionne. Allô Nico, ouais, écoute, je peux pas te parler là. Tu vois la fille que j'ai repérée dans le métro? Écoute, elle est juste là, je vais tenter quoi. Je crois que je vais aller lui parler tout de suite. Bon, je te rappelle après, je te dirai quoi. Ciao, ciao, à plus tard. Donc, tu restes bien sur le boulevard pendant au moins encore 300-400 mètres. À ce moment-là, tu vas voir un magasin de poissons, il y a un poissonnier. Et donc à gauche, oui, ce sera à gauche, tu vas tout droit, tu comptes la troisième rue à droite. Et alors là, quand tu seras dans cette rue-là, tu verras un Y. Et alors dans le Y, c'est tu prends celle qui a l'air le plus de s'éloigner de ton chemin normal. Ça y est, ça y est, ça sonne. Sors ce son qui résonne. Ça y est, ça y est, ça sonne. Et c'est vous qui rayonne. E questa la pronunci tu, perché sai che io con... Allo? È proprio quando si risponde al telefono? L'artista che io... Ah, Chloé Dutrèfle. Ma non l'ho detto neanche, me lo dice meglio Elisabetta Spada. Il francese magari. Per me è veramente ostico. O anche lì Natali, che parla tutte le lingue del mondo. È vero, qua abbiamo due... tra l'altro, insomma, anche questa è una cosa interessante. Eli Natali, per esempio, tu hai scritto pezzi sia in inglese che in francese, sì. Se non ci sono altre lingue, anche in italiano, sì. No? In italiano ne ho scritto una, ma non è venuto bene. Non sei contenta del risultato? Una volta in privé della canto e mi dite che ne pensate. Volentieri. E Elisabetta, anche tu, o solo in inglese tu componi? Ma anch'io ho fatto, no, in italiano proprio no, e in francese avevo fatto una canzone divertente su, si chiamava Le Blues de la Poule. Ma non è... Traduci, perché magari il blues della gallinella. Si sono sentite tre risate e una di no, e capite perché, essendo totalmente incapace di parlare francese e capirlo. Tipo l'astrella, ed è un termine anche vezzoso per chiamare una persona. Salut la poule, insomma, come va? Sì, un po' traducibile. Bella. Come la pollastrella. Ok. E quindi anche tu ti sei cimentata, però sì. Insomma, te prevalentemente l'inglese. Sì. E, a me veniva in mente, siccome abbiamo parlato di Chloe, che ha registrato insomma un po' anche le cose che succedono intorno a lei, no? Quindi nella metro, sì, c'era con questo concept album di cui ci parlava Elisabetta. A me veniva in mente il nuovo album di Camille, che è uscito, certo, da qualche giorno, che si chiama Ilo de You. Esatto. Sembra che insomma si debba dire così, che insomma in qualche modo è un... Aspetta, aspetta, che Elisabetta, stanno... tu hai un'altra. Dimmi. No, l'hai detto giusto. È solo che lei non ha sentito. È scritto Ilo Beiu, quindi insomma non si capisce subito che in realtà significa I love you. Esatto. Fondamentalmente, ma in un modo un po' diverso, più originale. E Camille ci ha abituato a questi scherzi, non soltanto con i titoli degli album, ma anche con le parole, con i suoni, insomma, nella sua carriera. Non sto qui a dirvi. È il rumore che diventa musica. Delle sue varie, diciamo, le sue varie esibizioni, la sua carriera con il Nouvelle Vague e tutte le varie cose che ha fatto da solista, perché le conoscete meglio di me. Però quello che era interessante nell'ultimo album, che viene fuori anche in un periodo di maternità, ne parlavamo prima con Elisabetta, quindi anche un periodo particolare per una donna, per il rapporto col suo corpo, poi una cantante e una musicista, perché lei si suona anche fisicamente, quindi insomma il corpo che cambia, si trasforma e dà vita a qualcosa, in qualche modo diventa anche una relazione diversa con questo corpo. E ha fatto questo album che è molto interessante, perché gran parte dei pezzi sono registrati in maniera un po' estemporanea, in una cappella, in un'abbazia, per strada, con le voci dei passanti, quindi insomma in maniera molto originale. E lei raccontava in un'intervista che molti di questi pezzi, insomma, sembrano estemporanei, ma poi in realtà sono molto lavorati, molto pensati. Come componete i vostri pezzi? Quindi come lavorate alla vostra musica? Vi viene così all'improvviso mentre siete in un posto improbabile, vi chiudete nel bagno e scrivete un pezzo, oppure state lì davanti alla vostra scrivania, alla finestra preferita? C'hanno paura, ragazzi, ci stiamo facendo Ellie delle Natali. Domandone. No, vado io. Ellie Natali, come vengono fuori i tuoi pezzi? Allora, in verità non è raro che mi vengono i momenti così assurdi, perché cioè quando ho un gomitolo di emozioni e sento che devo fare un pezzo, però c'è un groviglio che non so che cosa voglio dire, e quindi ho bisogno un attimo di raccogliermi, di tirare fuori le note, le parole da questo groviglio, e poi magari piano piano si va formando questa cosa. Ma ho bisogno di capirlo, perché io sono un po' inglese, no? Quindi non è che capisco sempre subito cosa sto provando. Dico, oddio, sento questa cosa, ma che cosa tu sarà? Sei australiana? No, solo di nascita. Ah, ok. Sono british in verità. E quindi... British dentro, diciamo. Oh. Quindi ho bisogno della tazza di tè. Sì, ho bisogno di pensare, ma che cosa sto provando? Che cosa voglio dire? Qual è il senso di questo groviglio? È così. Una grovigliata. Elisabetta, tu invece? Elisabetta, e io. No, interessante. È una bella immagine questa del groviglio che esce poi dalle note, questo filo. E, io che faccio? Io credo che ho un input, sento una pressione, no? Anch'io come il suo gomitolo di qualcosa da esprimere, e più che chiedermi che cos'è che esce fuori, fa come un ruttino, come una cosa così, e a volte può estrapolarsi che mi viene da piangere o altro, oppure faccio delle cose strane, e altre, ma devo essere nella condizione. Questo è il mio nuovo lavoro, che devo trovare un modo per essere capace di proteggere questo momento in cui hai un'emozione. Allora devi andare a casa o devi isolarti da qualche parte e dipanare la matassa come è lì, oppure sputarla fuori, suonare, fare rumore, Beh, un po' anche un problema culturale anche questo, nel senso che quando una persona fa un lavoro creativo, qualunque esso sia, in qualche modo dice, vabbè, ma tu sei creativo, come se insomma puoi lavorare in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, in qualsiasi condizione, perché tanto insomma la creatività, non c'hai bisogno della scrivania, invece poi in realtà non è vero. Cioè è vero che magari l'ispirazione si crea in qualsiasi momento, l'immagine si crea in qualsiasi momento, ma poi in realtà quella creatività deve essere, no, appunto dipanata in modo anche un po' ordinato per trovare il bandolo. Io ci sentiamo un pezzo di Camille e poi magari sentiamo qualche altra cosa live di Kiss and Drive. Avevo pensato di farvi ascoltare dell'ultimo album, che appunto è I Love You, il pezzo che si intitola My Man Is Married But Not To Me, che insomma è un titolo molto, molto carino e molto divertente, come Camille ci ha abituato a raccontarci storie molto molto ironiche. My Man Is Married But Not To Me, Camille. My man is married, but not to me. My man is married. is married, but not to me. My man is married, but not to me. Oh, oh, he's a, he's such a bad liar. I don't know why I keep pretending I'm a sweet lover. He thinks about me when he sleeps with her, but I'm 100% sure he'll never tell her. My man is married, but not to me. To me, my man is married, but not to me. Oh, but of course, soon he'll come and pick me up on his horse, white horse, horse. Era Camille, wow. Che se la suonava e se la cantava fondamentalmente, My Man is Married But Not To Me. E questo pezzo, come molti pezzi di Camille, parlavamo prima, insomma, a microfoni spenti, è piuttosto, insomma, ironico, prende un po' in giro anche le relazioni un po', come si può dire, poco chiare che spesso ci troviamo a vivere. Camille è un personaggio che ha scritto moltissimi pezzi in cui un po' si prende in giro le persone, se stessa. Mi ricordo c'era un pezzo molto bello in cui fondamentalmente diceva, sosteneva, affermava anzi con forza in un vecchio album, ho il talento e non lo devo né a Dio né a nessun altro, ma devo a me, a mia sorella, a mio fratello, a mia madre, a quella che è, insomma, fondamentalmente la mia famiglia, a quelli che mi hanno, esatto, wow. Eccole qui. E quindi, insomma, era anche un modo ironico, no? Per affermare, no, sono io che sono brava e sono brava di mio per quello che sono io. Quindi, insomma, questa ironia nelle canzoni. Poi io, Kiss and Drive, un po' di testi, visto che sono in inglese, li capisco e quindi posso dire che è molto ironica anche sul pacco, insomma, è un modo di presentarti molto, diciamo, crei una bella sintonia con il pubblico. Quindi, no, insomma, no, sono con... Assolutamente no. No, lo odio. Salgo sul palco, faccio 10 pezzi e me ne vado. Esatto. Un po' come PJ Harvey, diciamo. Proprio, mamma mia. Invece no, è una bella relazione. Lady Fest, tra l'altro, insomma, il tuo concerto è stato pienissimo, è stato molto apprezzato, anche perché la gente, sì, si è divertita. Sì, per questo tuo modo anche, insomma, di prenderti anche un po' in giro, sì, prendere in giro i problemi tecnici, insomma, le piccole cose che succedono, insomma, anche nei concerti da 100.000, 200.000 persone. Beh, certo, che quindi, faccio, insomma, tutti i giorni. Fa parte anche un po' di quello che racconti nelle tue storie, nelle tue canzoni. Sì, cioè non ho due mondi diversi. Quindi, come posso ridere di una cosa che succede nella vita, ne parlerò in una canzone nella stessa maniera. Che però può essere un'arma a doppio taglio, perché a volte, giustamente, uno nella musica deve dare delle emozioni che sono forti e l'ironia è una difesa, per cui se uno poi ci gioca troppo non si allontana dal proprio sentimento stesso, cioè, e vabbè, quindi difficile da spiegare, però volevo dire che l'ironia è importante e mi piace e resta come una piccola cosa, una polverina che sta sopra il tutto e... a condire. Esatto. Per esempio il pezzo My Mood Changed, che dà anche il, diciamo, il titolo al, al tuo album, è un pezzo in cui appunto racconti un po' di questi, no, di questi sbalzi di umori che insomma però importanti, che però sono anche divertenti, insomma, sì, che bisogna prendere anche con un po' di leggerezza. E certo, se non ci, sai che noia se non ci fossero quelli. E che però hanno, hanno una base importante, cioè sono le nostre insicurezze, no? Che insomma ci fanno anche umani, quindi anche un artista in qualche modo svelandosi nei, nei pezzi si racconta e aiuta anche le persone che l'ascoltano, perché dice ah, questo succede pure a me, quindi è tutto normale, va bene così, chi si andrà mi piace, allora va bene così, posso essere insicura anch'io. Pensavamo di farvi sentire un altro pezzo live di Kiss and Drive. Potrebbe fare proprio questo. Che magari, se ha voglia di farlo, potrebbe appunto raccontarci come cambiano i, come cambia il suo umore, appunto con il pezzo My Mood Changes, che è il pezzo che dà il titolo al suo album, che se volete passate un attimo qui in Via dei Volsci a Radio Onda Rossa, ne lo vendiamo migliaia di copie al volo, caliamo il panariello dal primo piano, voi mettete dentro i soldi e noi vi diamo il CD al volo, quindi meglio di così non si può. Qui live a Sisterhood is Blooming, Kiss and Drive, My Mood Changes. Any time, I know you could be there. Any time, I know you should go where I suppose you would go to. Do you know what this causes, though? Do you know what this causes, hun? Don't you know, since you're so, even if you never wanted to do so? My mood changes, can't see straight. My tongue grips, my lipsticks, my ship sinks, but it's alright. My mood changes, can't see straight. My tongue grips, my lipsticks, my ship sinks, but it's alright. I hope you don't mind. I hope you'll be elsewhere. I suppose you would go to. Do you know what this causes, though? Do you know what this causes, hun? Don't you know, since you're so, even if you never wanted to do so? My mood changes, can't see straight. My tongue grips, my lipsticks, my ship sinks, but it's alright. My mood changes, can't see straight. My tongue grips, my lipsticks, my ship sinks, but it's alright. I hope you don't mind. My mood changes, can't see straight. My tongue grips, my lipsticks, my ship sinks, but it's alright. It's alright. I hope you don't mind. Abbiamo anche l'applauso da live qui in studio. My Mood Changes, Kiss and Drive. Adesso la music ci fai ascoltare qualcosa di preparato da te? No, non se ne parla proprio. No, sì, possiamo anche, sì. Allora, no, volevo fare una sorpresa agli Natali, ah, e mandarle un pezzo e poi dopo che ci sentiamo questo pezzo parlare un po' di questo tipo di musica, pezzo, di questi artisti e farci due risate, poi capirai perché. Quindi nel tempo che sentiamo, lo prepariamo questo pezzo, io ci impiego mezzo secondino nel pezzo che ci prepariamo. Vuoi che lo annunci o dobbiamo fare una sorpresa alle nostre ascoltatrici? Una sorpresa a tutti. Sì. Perfetto. E poi da qui ci attacchiamo a un discorso musicale, però capirete. Una piccola sorpresa. Esatto. Ecco fatto. E questi erano i Two Pigeons, un gruppo che Eli Natali ama molto. E io volevo appunto chiederti che cosa ne pensi di questi gruppi di nuovi che stanno appunto componendo in questo modo un po' più sporco, volutamente più sporco rispetto a prima, con i loop, con appunto, cioè mettendo musica elettronica però con melodie anche vagamente retro, insomma, quello che pensi di questo movimento che c'è ora in Italia? Io mi piacerebbe che ci fossero movimenti di questo tipo in Italia. Sì, appunto, non è, diciamo che i Two Pigeons mi hanno incuriosito perché non sono, cioè in Italia tendenzialmente si fanno dei generi molto come si dice, incategorizzati, no? E poi invece loro, diciamo che non è che fanno una cosa particolarmente sperimentale, però fondono, cioè vanno, diciamo, a confondere un po' i generi come vengono tradizionalmente intesi. E quindi lei canta in inglese, fa dal vivo un... Poi sono italianissimi, no? Però non sembra, sì, sentirli. Sì, in verità lei è, penso, cresciuta in America, che poi era, era intervistata in radio qua a Radio Donna Rossa l'anno scorso. E lei è molto brava, ha diversi progetti, però questo mi interessa in particolar modo perché lei è, appunto, come in modo diverso, ma come Camille, come Kiss and Drive, cioè si suonano un po' dal vivo, cioè fa delle cose live che io sto imparando a fare, non le so fare, cioè questa loop station che moltiplica le voci, questi effetti che trasformano il suono, sono delle cose secondo me che danno un elemento in più al live in particolar modo. Infatti sto sperimentando queste cose, questi pedali con un gruppo che si chiamano Gli Urinate, e che però fa un genere un po' cattivo, insomma, un po' perché industrial. Tu stai passando un po' dal folk allo sperimentale, stai cambiando un po', no? Come sì, suoni un po'. Sto sperimentando diverse cose, poi penso, cioè non so se posso portare in parallelo questi due modi di essere diversi oppure se si fonderanno a un certo punto e diventerà un ibrido strano. Però porta avanti, sì, il progetto più cantautoriale, che comunque sta diventando un po' più rock. E poi dall'altra parte c'ho Gli Urinate, c'ho anche il set che avevo alla Lady Fest con Stella Veloce, era un'improvvisazione di voce e di violoncello con loop station e effetti, ed è più sulla, cioè che cosa sai tirare fuori sul momento. Ed è interessante vedere perché si sviluppa nel momento e nel luogo in cui stai suonando e poi finisce là, e chissà se potrai mai rifarlo. Bene. Beh, interessante. Bella, eh? Bella risposta, Eli. Brava, promossa. Interessante. Beh, facciamo un po', diventiamo un po' più cattive, nel senso che abbiamo messo anche, abbiamo fatto ascoltare un po' di cose piuttosto tranquille, bellissime, ma piuttosto tranquille. Quindi io mi concedo un pezzo di un trio di Brooklyn, la cui cantante si chiama Molly Hamilton. Loro si chiamano Widow's Peak e sono, hanno inciso questo album da pochissimo, omonimo, per una interessante etichetta di Brooklyn che si chiama Captured Tracks. Loro fanno, e abbiamo parlato a proposito delle Twin Sister, che tu avevi messo, sì, la music qualche settimana fa qui a Sisterhood. E tra l'altro la Captured Tracks ha un blog fighissimo che, insomma, potete trovare molto facilmente, fate una piccola ricerca su Blogspot, dove uploadano pezzi vecchi di tratti da vinili o da cassette che sono introvabili, che a loro piacciono molto, avrebbe insomma quel genere di musica che a loro piacerebbe produrre, quindi in qualche modo anche diffondendo l'idea delle band che vogliono che li contattino per farsi produrre, per farsi, insomma, per farsi incidere. Quindi la Capture Tracks, interessante, Blogspot è il loro blog. Loro si chiamano Widow's Peak. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è molto sporco, molto grezzo, si intitola Harsh Realm. Queste erano Widow's Peak, direttamente da Brooklyn per noi. E, a me veniva in mente, io per esempio ho una formazione, nel senso un background musicale molto, nonostante adesso mi piacciono moltissime cose folk eccetera, però ho un passato da Bikini Kill, da Riot Girl, cioè insomma quando ero adolescente ascoltavo musica super tosta, e visto che comunque voi insomma fate anche te e Lynn Natali stai diciamo anche percorrendo questo percorso un po' più, percorrendo questo percorso non si dice, però percorrendo questo percorso un po' più tosto anche con la chitarra, quindi anche con un impatto un po' più duro, quali sono le artiste che invece ti hanno ispirato un po' più toste, no? Allora più... sì, io faccio un percorso inverso invece, sì, cioè prima cioè sono formata diciamo con delle artiste più tranquille. E ho sempre suonato in modo molto tranquillo la chitarra, invece adesso stai recuperando questa... Sì, sì, sto conoscendo, sto facendo conoscenza con la chitarra elettrica, con tutti i suoni che permette di fare la chitarra elettrica, e sto conoscendo anche dei gruppi più cattivi, insomma. Per esempio un artista che se ti viene in mente adesso, che ti sta ispirando, che comunque ti sta piacendo particolarmente... Diciamo che Elisa Bella, la ragazza che suona con me, mi sta facendo sentire un po' di tutto. In questo momento mi sto sentendo The X, uh-huh, che sono abbastanza pazzi, insomma, e hanno un suono che cambia continuamente, ma è sempre grezzo. Sì, mi piace questa cosa, e c'è più calore. Elisabetta Spada, te hai scheletri, che ne so, heavy metal nell'armadio? Beh, Peaches mi piace un sacco, non è heavy metal, non è neanche troppo cupa. Sì, però è abbastanza tosta, diciamo. Sì, PJ Harvey all'inizio, you can get rid of me, tutte queste belle cose tutte là. Siamo passate, sì, esatto, Harvey, prima o poi. E poi che altre cose molto... No, poi devo dire che a un certo punto mi sono votata al positivismo. Quindi a tutte cose abbastanza... Cioè no, mi piacciono le cose tristi, però forse calme e tristi, e la rabbia, proprio la musica rabbiosa, mi mette ansia. Ti mette ansia? Troppo, troppo... Ma no. Quali sono i tuoi riferimenti? Ma quali sono i tuoi riferimenti però musicali? Insomma, quelle due, tre, insomma, perché tutte quante ce l'abbiamo, quelle due, tre artiste in qualche modo hanno cambiato anche il tuo modo di guardare alla musica, no? Beh, io come dicevo a Luana l'altro giorno, Feist, Tender Forever, per la Tender Forever è molto diretta, cioè la sua musica è semplice, cioè le note stanno là, le canzoni sono corte, quindi hai proprio un'impressione che lei ha preso una cosa, un'esperienza, un'emozione, qualcosa che gli è successo, e ne fa una canzone che fa un percorso che scorre come quello che lei vuole esprimere. E a me mi ha ispirato, perché ho detto, ah, allora uno può anche fare delle canzoni che sono così, che sono finite, nel senso che parlano di una cosa e che non vanno in tanti film, cose, non hanno altri super livelli. E poi Feist, perché riesce a essere molto energica e anche molto sobria e triste in delle canzoni più malinconiche. Hai sentito l'ultimo? Sì, sì. Che ne pensi? Devo dire, mi è piaciuto di meno di The Reminder, quello precedente. L'ho vista in concerto a Bruxelles qualche settimana fa. Rosicate. Invidia. E sono anche seduta sul palco a ballare un lento, perché ha detto, chi vuole share the love, venga qui, e c'è tanto spazio per ballare, quindi tutte delle coppiette sono salite, okay. Esatto. Era un concerto, vabbè, sì. Era un concerto, è stato bello, e era molto ritmico, cioè c'era quello che mi è mancato era la varietà. In The Reminder c'erano dei momenti super intimi ed altri proprio esplosivi, come 1, 2, 3, 4, delle canzoni super gioiose. E lì, in questo disco là, tu senti che è fatto da tante persone tutte insieme, però mi è mancato il momento di intimità A cui ci aveva abituate. Sì, sì. Sì, è una cosa che avevo notato, ne parlavamo qualche giorno fa io e la Musique, che insomma è un momento, pensavamo anche all'album di My Brightest Diamond, che comunque è anche quello un lavoro corale, diciamo arrangiato e finito in realtà con una piccola band di insomma, musicisti, contrabbasso, c'è cioè un clarinetto, insomma, quindi vari musicisti in qualche modo sono entrati nel lavoro di, invece di artisti che generalmente lavorano piuttosto da sole, come fa esse stessa, insomma, cioè si capisce che dagli album passati che comunque i pezzi venivano in maniera molto solitaria, e invece in qualche modo sono più aperte in questi ultimi lavori, e anche il risultato e il prodotto, insomma, quello che viene fuori è, si sente che in qualche modo dipende dall'influenza degli altri. Da questo punto di vista è interessante, però è anche un momento, the gustibus dipende, un momento particolare di creatività, quindi insomma che ha bisogno di stare insieme agli altri. Noi pensavamo di farvi ascoltare un altro pezzo di Eli Natali. Yes. Se Eli ce lo vuole. Prepariamo tutto. Cioè, io non so il titolo del pezzo, che ci canti in francese, in inglese? Non è ancora deciso. In aramaico. Facciamo il pezzo in francese. Un pezzo in francese. È un pezzo del mio vecchio album. Il titolo lo dici tu, perché sai che si chiama sì, il pezzo si chiama Saint-Ange, vediamo se ridillo Donazzonica, ridillo Saint-Ange. Ok. Eli Natali. Je dépose chemise et masque de scène. Je me retrouve sur le rivage avec mon rapport amour et haine. Pour la ville sans clivage, l'eau troupe de saleté et de boue. Le profit de pouvoir de mensonge, figure de film et peut-être même plus d'un monde qui meurt d'indifférence. Et si mon cœur arrêtait de t'entendre, est-ce que mon cerveau lui dit que tu mens? C'est toujours l'histoire de l'existence, au moins d'une vérité contingente. Et en capitalisant ton incertitude rétroactivement, je t'avoue que j'ai de la peine à peser le poids de tes paroles. Sans lunettes de soleil, j'ai envie de comprendre si tu es présent d'esprit. Montre-toi sans parure. Pourquoi j'ai envie de pleurer une toiture? Mais sous l'arche du pont de Saint-Ange, un pépé joue de la flûte traversière. La mélodie remplit chaque creux, est absorbée, réfléchie par l'air. Tant plus pas en direction de la mer. Des bouteilles colorées cherchent à remonter le courant. Elle avance guère, mais comme une tangue dans les rapides. Et si mon cœur arrêtait de t'entendre, est-ce que mon cerveau lui dit que tu mens? C'est toujours l'histoire de l'existence, au moins d'une vérité contingente. Et en capitalisant ton incertitude rétroactivement, je t'avoue que j'ai la peine à peser le poids de tes mensonges. Soleil, j'ai envie de comprendre si tu es présent d'esprit. Montre-toi sans parure. Pourquoi j'ai envie de pleurer une toiture? E questa era Eli Natali. qui live a Radio. Sì, si può fare, possiamo fare. Certo, applauso. Applaudono anche dall'altra stanza. Eravamo tutte così. No, facciamo. Dovevo portare gli applausi finti. Ce li ho da qualche parte. E facciamole l'applauso. È bella questa dimensione, anche questo scambio che siamo in qualche modo, questo parallelo tra due artiste diverse che hanno una storia diversa, che vivono in posti diversi e però insomma fondamentalmente vogliono vivere facendo musica, che questa è la cosa più importante. Com'è il mondo della musica per le donne? Questa è una bella domanda, io la facevo sempre quando facevo le interviste. Ah, gli abbiamo fregato pure. Ecco qui. Adesso stasera sei l'artista e rispondi te. Non so più qual è la risposta in verità, perché è vero che a volte c'è una gabbia nella quale si aspetta che una donna faccia tu ci fai musica, che dicono ma che fai un po' Carla Bruni, fai cioè comunque canti, sei bella e fai una musica bella. E invece è bello anche fare una musica che è brutta, cioè nel senso che non brutta, che non è bella come una si aspetta che deve essere, no? Certo. E quindi mi piace sempre, forse anche per questo che sto cambiando un po' lo stile, è sorprendere un po' il pubblico che si aspetta che io magari con questa faccetta così d'angelo e questa chitarrina faccio una musichetta caruccia, canto in modo carino. Senza dare troppo fastidio. Senza dare troppo fastidio, invece magari dargli un po' una botta un po' che, certo, che disturbi un po' le aspettative, questo mi piace. Invece Elisabetta Spada, per te com'è il mondo della musica con le donne? Con le donne? Quando vengono con te dopo il concerto? Nei camerini? No, questo magari dopo in privato, no. Davanti, nel senso, come accoglie le donne l'ambiente della musica? Ullala! C'è una differenza, c'è una difficoltà, quali sono le tue difficoltà? Per il momento vabbè, ma io vivo in Belgio e credo che sia un ambiente un po'... sono più pronti ad avere artiste donne e non che le artiste sono solo le cantanti e non altri, che insomma che non suonino altri strumenti, e il pubblico è più educato, nel senso anche più misto. Secondo me in Italia anche spesso ci sono più uomini che vanno ai concerti, che si muovono di più, le ragazze sono al seguito, organizzano di meno, sono meno tra quelle che trainano i gruppi. Poi insomma, magari generalizzo troppo e non è detto, però è ovvio che secondo me in Italia c'è un po' l'aspettativa, come diceva Eli, che la ragazza bellina, già che di base le persone si curano di più, e uomini e donne, poi le ragazze ancora di più, per cui prima di salire sul palco io mi rendevo conto che in Belgio mi sentivo la più gnocca di tutte, perché in questo concorso a cui ho partecipato facevo attenzione, cioè ho scelto un vestito, ho pensato devo considerare anche il lato estetico della faccenda, certo. E per i belgi è una cosa nuova, perché non sono come i francesi che comunque fanno uno sforzo, sono il frime, no? Fanno yeah yeah yeah così, se la tirano, non se la tirano per niente, e quindi sono un po' informali, ecco. Sono molto informali e sono a volte, io te lo devo dire, anche un po', a me sembra sciatti, nel senso che tu fai uno spettacolo, beh, devi curarlo magari un po' le pantofole, non ecco so. Magari no, sì, la camicia slavata se non è che ti sta proprio la camicia che ti sta meglio, magari no. E quindi, oddio, perdo sempre il filo, non no, è possibile. Dicevi che fondamentalmente in Italia siamo invece molto attenti, soprattutto sì, per quanto riguarda le donne, all'aspetto, ma poco attenti ad ascoltare poi la sostanza. Cioè, quindi, sì, e poi come diceva giustamente Eli, che la gente si aspetta e c'è molta come dire, le persone come dire, seguono un po' la scia e si mettono in questa casella che le ragazze, cioè non lo so, secondo me è proprio generico nel comportamento delle donne che è diretto da un'immagine. Non stiamo mo a fare tutto un capitolo sulla televisione, però l'immagine della donna che viene riproposta è questa un po' locchetta, la velina, gnì gnì gnì, che fa le un po' troppe manierine così, Quindi insomma, in qualche modo alla fine quello che mi raccontate è che la vostra esperienza è piuttosto positiva, nel senso non avete avuto problemi in quanto donne, se non per il fatto che in generale insomma un po' si aspetta da voi che non facciate troppo rumore e che il concerto finisca presto. No. Roba così insomma, sostanzialmente. Diciamo che forse c'è sempre qualcosa da provare in più forse rispetto a un maschio, quello sì. Sono d'accordo, cioè tu arrivi sulla scena per fare il sound check e se non hai i cavi, no? Come se, e tu fai sì ce li ho e sono anche piegati bene perché sono una piccola maniaca e ti guardano tipo ah questa sa fare le cose, straordinario, strano, sa fare le cose, non lo so, cioè sì, si aspettano che tu sia un po' meno preparata degli uomini, che lo fai un po' tipo il lavoro della domenica. Non lo so, all'inizio e durante questo concorso l'ho sentito alcune volte e poi ti è becca. Sì, no, da un punto di vista dell'aspetto tecnico, noi abbiamo il fonico qui, il fonico, la music, la insomma, grande Luana! Che insomma, spesso c'è proprio questa poco rispetto per le donne, soprattutto quando salgono sul palco e magari appunto suonano e non cantano soltanto, quindi hanno bisogno magari dei loro effetti, dei loro suoni messi in un certo modo, quindi c'è spesso anche sui palchi più importanti qui a Roma c'è poca attenzione a quello che invece sono le esigenze delle artiste, quindi insomma questa è una cosa che effettivamente riscontriamo. La musica, intanto vedo dalla pagina nostra Facebook che le ragazze dell'Hula Hoop Club sono connesse e l'Hula Hoop è un locale del Pigneto dove con Donna Sonica siamo nate lì artisticamente, abbiamo cominciato a fare i primi DJ set e poi da lì siamo arrivate alla radio. E dove prestissimo ci sarà una bellissima serata dell'MFLA il 18 diciamo di dicembre, prima, quindi con ospiti musicali assurdi dal vivo, due DJ set finali, quindi insomma anteprima 18 dicembre a Lula, che salutiamo. Sì, e lo stanno usando come sottofondo per la loro serata, la nostra trasmissione, quindi un bacio veramente a Francesca e a Betta. E senti, tu mi prima parlo con Kiss and Drive, tu prima mi parlavi di Tender Forever. Sì. E quando ci siamo conosciute alla Lady Fest dicevi che ti era piaciuta perché avevi sentito una sua cover e insomma ci vuoi parlare un attimo, perché anche tu fai una cover, quindi io volevo fare sentire agli ascoltatori la cover di Tender Forever, che è My Love, è una cover di Justin Timberlake, suonata con ukulele e voce così, e poi se ti va tu ti attacchi dal vivo e fai la tua di cover. Perfetto. Che quanto è figo fare cover di gente improbabile, sì, però fatte che diventa un altro pezzo, no? Penso che Justin Timberlake e altri musicisti insomma così, che piuttosto pop, piuttosto facili d'ascolto, sono tra i più coverizzati, come mi piace dire, insomma tra i personaggi che hanno più cover, anche per esempio di Justin Timberlake c'è una bellissima cover delle Clicks, che insomma era un gruppo molto interessante rock, che avevano fatto un suo pezzo, non so se ve lo ricordate voi, che era piuttosto, era il pezzo in cui lui si lamentava che lei l'aveva lasciato, la sua tanto è sempre fidanzata. La stessa storia che racconta più o meno, una tragedia terribile, però insomma riportato a una base un po' più rock, era molto più divertente, insomma sembrava un pezzo bello. Sì. E quindi insomma ti volevo chiedere cosa ne pensi appunto del fare cover, anche nel senso che le ritieni un passaggio comunque importante, oppure qualcosa che se viene la fai, se no non importa, insomma considerare l'artista e magari rimettere mano sul lavoro dell'artista, insomma lo consideri una cosa figa, musicalmente figa? Sì, ma da una parte ti rilassa perché presenti una cosa che non è tua, quindi in realtà dal punto di vista emotivo a volte puoi dare anche di più che su un pezzo tuo, perché è tuo e c'è troppo vissuto e c'è molta attesa. L'ho scritto io, quindi. Esatto, invece su quelli che non hai scritto tu ti puoi lasciare andare ad altre cose interessante, poi vedrete come interpreterò la mia. E volevo dire sulla scelta di questo pezzo di Justin Timberlake che anch'io quando ho iniziato a fare i concerti ho ripreso la cover di Tender Forever di Justin Timberlake, perché mi era piaciuto un sacco. Io la facevo alla chitarra perché è così e l'ho cantata tante volte. Hai coverizzato una cover? Sì, esatto, l'ascolterò con grande piacere. Ok, lei è Tender Forever e questo è My Love. What on earth am I meant to do in this crowded place? There is only you. Was gone to live, but now I have to stay. You have taken my breath away. Ooh, is the world still spinning around? Spinning around. Ooh, I don't feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart's sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. Destiny has a funny way. When it comes and takes all your cares away, I can think of a single thing rather than what a beautiful state I'm in. Ooh, is the world still spinning around? Spinning around. Ooh, I don't feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart's sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. Surprise, surprise. I've been watching you lately. I want to make it. I want to make it with you. Questa era la versione di In Your Eyes, che è un pezzo scritto, tra l'altro, musica e parole di Kylie Minogue. Di Kiss and Drive qui in studio live a Radio Onda Rossa per Sister Who Is Blooming 9. La music, che ne pensi? Penso che era uno dei miei sogni fare una puntata del genere dall'inizio. Pensavo che era uno dei sogni sentire Kiss and Drive che coverizzava anche ovviamente Kylie Minogue. Noi spesso diciamo una cover di Kylie Minogue allora è proprio il massimo, perché Kylie Minogue ormai è veramente il non plus ultra, no? Degli australiani. È l'Australia Kylie come Minogue musica, insomma. Un pochettino lasciano a desiderare. E allora io volevo farvi ascoltare un personaggio che tu conosci, Elisabetta, perché ne abbiamo parlato, Anne Huckelberg. Se sì. Ne ricordi? Ne abbiamo parlato, che è una musicista norvegese che insomma comincia a suonare a 3 anni, una di quei personaggi di cui spesso parliamo. Ci sono tantissime artiste donne che cominciano a suonare, che studiano un sacco di strumenti e quindi sono delle artiste vere con la maiuscola. Comincia a suonare a 3 anni, suona un po' di tutto, fa jazz, free jazz, ed è stata anche membro di una band in Norvegia molto famosa che faceva doom metal. Sì. Non so la music se tu lo conosci. No, cos'è conosco doom metal, un po' il doom metal. È una roba pesantina, loro si chiamavano The Funeral, non a caso. Certo, ed è interessante poi insomma magari sentirsi qualche pezzo dei Funeral e poi vedere quello che fa adesso Anne Huckelberg, che insomma è una cosa un po' diversa dal doom metal. Una cosa molto carina di Anne è che ha fatto insomma un paio di album, 3 album molto interessanti, un primo EP nel 2003 che si chiama Cast Anchor, Little Things nel 2004 e poi un paio di piccoli lavori nel frattempo fino all'ultimo album che si chiama Blood from a Stone nel 2009. Ho letto nel suo blog che ha finito di preparare i pezzi del nuovo album, sta aspettando la post produzione, quindi speriamo che nei prossimi mesi uscirà fuori qualcosa. Una cosa carina di Anne è che lei utilizza un sacco di cose, non strumenti, nei suoi pezzi. Che ne so, una macchina da scrivere, piuttosto che, mi ricordo in un suo concerto c'era una bicicletta al contrario, quindi con le ruote in aria, che ogni tanto lei faceva girare come suono in un pezzo che aveva scritto. E così anche insomma gli altri musicisti che l'accompagnavano avevano tanti piccoli giocattolini, ma in realtà no, oggetti della vita normale che in qualche modo poi messi in quel pezzettino, in quel posto esattamente pensato così, diventavano come musica, uno strumento. Quindi un po' pensavo, Elisabetta, Elisabetta Spada, Kiss and Drive, anche tu insomma utilizzi la chitarra, l'ukulele, la loop station sul palco, insomma un po' di hack, penso anche altre cose che ti viene, tipo il clap, la voce, le mani, il tuo corpo insomma in un certo senso. Quanto è importante questa cosa, questo giocare anche con le cose che ci circondano e farle diventare un suono? Fighissimo. Io a questo proposito vi racconterò una cosa che vi piacerà. Ho fatto il mixaggio, insomma non l'ho fatto io, una persona ha fatto il mixaggio dell'EP che è uscito da poco, disponibile su cioè iTunes, ed è una Radio donna. Rossa, via dei Volsci, basta che bussate. Sì, ma solo oggi, dalle 8 alle 8 cogli l'attimo. Esatto. Ed è una donna, è una tecnica del suono belga che si chiama Christine Verschoren. Vedi dove devo andare io. Esatto, e che ha fatto l'opera. E a un certo punto stavamo registrando un altro suono, stavamo registrando il pianista che suona il piano con me, cioè non con me, lui suona il piano, io gli altri strumenti, in Belgio. Doveva registrare il fischio, perché fischia molto bene. E io ero seduta su una sedia che scricchiolava. E lei ha trovato questo rumore super figo, anch'io, ma che figo sta sedia, come scricchiola bene. E l'ha registrato e l'ha usato come rumore di fondo in una canzone e ha fatto poi degli effetti come acquatici e in realtà poi ha dato tutto un'immagine sonora di questo scricchiolio che sembra lo scricchiolio di una nave, no? Come... E poi anche e dei suoni di balena su una sedia, esatto, studio mentre che si muove. Figo come scricchiola bene questa sedia, guarda, e quindi tutto può essere musica, è molto interessante. E l'ukulele come viene fuori nella tua musica? L'ukulele viene un po' fuori anche prima fra tutti la grande Tender Forever con la sua cover che mi ha molto impressionato. Poi non so, mi sa che c'era una piccola moda dell'ukulele, c'era un altro artista francese che avevo conosciuto che c'aveva l'ukulele, ho detto ma è ciccino, è un suono molto molto allegro, no? Non so, ha un timbro l'ukulele che mette il sorriso, non so. Assolutamente, no? Ormai ti dico un segreto, è una moda mondiale. Noi abbiamo fatto sentire... No, è una cosa bella perché è uno strumento che sostanzialmente si presta un po' a fare tutto. Noi abbiamo fatto sentire molte cose di Amanda Palmer, che è un'artista che mi piace moltissimo. Eh sì. E lei ha fatto un po' in giro su YouTube, se cercate un po' trovate, che ne so, la sua cover di Creep fatta con l'ukulele, piuttosto che... altri pezzi che ne so, magari di artisti anche hip hop che lei ha riarrangiato con ukulele e voce, quindi insomma è uno strumento che in qualche modo spinge a giocare. Quindi penso che questa sia una delle sue forze, della sua forza maggiore, no? Sì. Quella di spingere a giocare con le parole, con i suoni e quindi a inventare. Che ci fai ascoltare, Kiss and Drive? Annunciati tu. Mi annuncio io, allora dedicherò alla conduttrice della trasmissione questa canzone, che è la sua preferita, che si chiama Don't Be So Hard. E voilà, no? Basta, ho detto tutto. Kiss and Drive, live a Sisterhood is Blooming, Don't Be So Hard. Leave me disarmed. There is nothing I can do, there is nothing I can do, is my answer to you. The way you surround me, leave no chance to escape. And the harder I try, the tighter I got tied. Sarà Kiss and Drive, grazie della dedica, questo è il mio pezzo preferito, quindi insomma l'abbiamo svelato. E parlavamo prima di Anne Huckelberg, dopo vi faremo sentire ancora Elena Natali qui dal vivo, se lei c'ha piacere di farci un pezzo, sempre per piacere, mai per comando. Insomma, io avevo parlato prima di Anne Huckelberg, parlavamo dei giocattolini, del mettere dentro le cose che raccontiamo, le cose che raccontano gli artisti, quello che fa parte anche, i suoni che fanno parte della nostra vita. Quindi vi faccio ascoltare Anne Huckelberg e il pezzo si intitola Ticking Bomb. Good. I need another. Questo finale bacchiano, molto bacchiano, sì. Sì. Anne Huckelberg, Eli, allora il tuo album è 2008, si chiama Interpretation in francese, giusto? Interpretation. Ah, oui. Grazie. E adesso ci raccontavi prima che stai lavorando ai pezzi per il nuovo album, quindi insomma sei, sì, in fase creativa e anche insomma... Diciamo che sì, i pezzi sono scritti da tanto tempo, perché infatti questo disco è uscito nel 2008, quindi i pezzi nuovi sono belli che scritti, però sto lavorando sull'arrangiamento insieme a Elisabella e Stella Veloci, quindi stiamo vedendo un arrangiamento per chitarra, batteria, violoncello. E vorrei che disco recitare. Sarà? Almeno come te lo immagini? Questo è difficile, perché appunto mi trovo in questa fase in cui comincio a suonare alcuni pezzi con la chitarra elettrica, con dei suoni più meno puliti, e quindi non so se sarà un po' e un po', oppure se sarà una via di mezzo, oppure se lo porteremo all'estremo, chi lo sa. È ancora in lavorazione. Sì. Allora, intanto ci ascoltiamo non dall'album di cui parlavamo, Interpretation di Eli Natali, che insomma, se volete potete trovare, si trova online, Eli, io non lo so questo, quindi anche nei negozi, no? Lo troviamo anche. Sì, c'era una distribuzione. C'è una volta. Distribuzione, sì, ci sono un paio di negozi qui a Roma dove l'abbiamo visto questo visto. Album, quindi insomma potete trovarlo in giro se lo volete. Eli Natali, Interpretation, e intanto aspettando il nuovo album ci ascoltiamo il pezzo Flowers. Accendo il volume, ce l'ho io abbassato. From a place where the earth is dry and bare, no one but cultivating flowers. Not that we don't appreciate beauty, it's simply non-essential. Achievement is somewhere else till you show me else. The sun sets down. Yeah. tight thought I have no home, and I found them horrible, and I found them beautiful. So I set up my shed, 'cause I wasn't giving up on atmospheric conditions. I wanted to become beautiful. Come to the bay where the sun sets steadily. Well, che Eli sta sperimentando nuove sonorità, senti anche un po' più sporca nonostante la chitarra acustica, però sta Eli Natali, ne parli come se non fosse qui, quindi insomma questo mi preoccupa. Ma allora, lei in realtà Eli, non c'è. Allora Eli, allora sì. Abbiamo appuntamenti che possiamo dare prima di salutarci, visto che insomma sono le 22:22, quindi siamo in addirittura d'arrivo, concerti, date imminenti che magari insomma. Forse suoneremo con le ragazze, con Elisa e Stella, il 30 dicembre. Ok. E il 18 che fai, scusa? Prima, naturalmente, c'è il 18. Beh, non volevo bruciarvi la notizia. Suonerò. Quella la dobbiamo preparare con una certa attenzione. E poi il 18 sarai 18 appunto dicembre. sullo stage dell'MFLA e dell'Hula Hop. Quindi, alla insomma, dicevi questa data? Di autofinanziamento per Radio Onda Rossa e il martedì autogestito da femministe e lesbiche. 18 dicembre, a che ora? Dalle 18 alle 24. Dalle 18 alle 24. Così. Vago, siamo rimaste sul vago, così insomma. Che senso? Non ci dice che farà. Non si sbaglia che mai. Che cosa farai? Ci vediamo 18. Grazie Natale di essere stata con noi. Grazie a voi. Kiss and Drive, allora appuntamenti live, dove ti possiamo ascoltare, vedere? Allora, mi potrete, però peccato perché Radio Onda Rossa si sente a Roma e suonerò il 5 novembre a Torino, quindi peccato. Ma siamo in streaming però. Esatto, esatto. E a Roma non si sa ancora, andata da definirsi, però ce ne saranno a bizzeffe, spero. E poi Belgio, purtroppo, se c'è qualcuno che in streaming si sta ascoltando mi potrà venire a vedere in Belgio, dove ci sono varie svariate date in dicembre specialmente, e tutto ciò lo potranno vedere sul mio MySpace. Vabbè, insomma, sì, siccome siamo anche tecnologiche, giusto, insomma, diamo i riferimenti. Lo diamo. www.myspace.com/kissanddrive, come bacia e guida, kiss and drive, tutto attaccato, tutta una parola. E Natali, il tuo MySpace, oppure lo spazio, insomma, che utilizzi anche un po' per far ascoltare la tua musica? Sì, ancora ci sto col MySpace, spero di avere un sito presto, però intanto il MySpace è www.myspace.com/ElinaTali. Perfetto, facile. È il Natale, kiss and drive, non mi potete sbagliare. Allora, noi andiamo a concludere questa puntatona speciale, due ore, sembra una cosa natalizia, insomma, particolare, infinita, queste belle presenze qui in studio, Kiss and Drive e Natale, che ci hanno fatto appunto il piacere di stare con noi, di farci ascoltare musica live e di chiacchierare un po' con noi di musica di donne. L'appuntamento per Sisterhood is Blooming con la puntata numero 10 è fra due settimane, alle 22, dalle 22 alle 23, più o meno circa. E noi chiudiamo la serata con questo pezzo che chiude l'album di Kiss and Drive, che vi ricordiamo si chiama My Mood Change, e il pezzo si chiama She's So Full of Things. A presto. She's so full of things, she's so full of things, she doesn't even know what to put them. Pieces of